Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ritroviamo i nostri amici dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, buongiorno ai radioascoltatori. Allora Gianluca, parliamo di case, siamo in un periodo storico dove forse non pagheremo più l'IMU, giusto? Almeno sì, sulla prima casa. Forse il mercato sta iniziando a muoversi. Voi come Adico adesso oggi ci parlate un po' di quello che è l'andamento della compravendita delle case. Sì, diciamo Francesco che poi è un nostro monitoraggio costante quello del settore immobiliare, perché chiaramente poi dal polso anche di una situazione economica legata poi a chi noi difendiamo, appunto ai consumatori. Quindi è un indicatore fondamentale quello del settore immobiliare per capire come stia andando un'economia. Da un paio d'anni stiamo dicendo che qualcosa si muove, nel senso che si comincia, il settore immobiliare diciamo ha ripreso a vendere, quindi le compravendite stanno aumentando anche in percentuali abbastanza elevate. Noi rileviamo per esempio qua nel Veneto, insomma, abbiamo aumenti attorno al 20% per quanto riguarda le vendite di case rispetto all'anno precedente. Però Francesco, dobbiamo stare attenti, perché veniamo da 7-8 anni di dati disastrosi. Quindi diciamo, abbiamo toccato il fondo, stiamo un po' risollevando la testa. Sì, forse merito anche del fatto che le banche piano piano stanno ridistribuendo i soldi con i mutui? Hanno riaperto il famoso rubinetto del credito, questo è confermato da molte analisi, non solo per quanto riguarda anche proprio i finanziamenti per i mutui, ma anche per i finanziamenti per gli investimenti delle imprese. Noi aggiungiamo, speriamo davvero che ci sia una svolta, anche perché con le banche in questo periodo insomma abbiamo avuto anche esperienze non proprio positive, e c'è da dire che comunque i prezzi delle case si sono notevolmente abbassati. E Francesco, tu ricorderai quando insomma a suo tempo si passava davanti a un'agenzia immobiliare e non si vedeva nulla al di sotto dei 200-250 mila euro. Adesso insomma bene o male si può vedere che i prezzi sono scesi decisamente, e questo è uno dei motivi per cui la gente ha cominciato a ricomprare. L'altro è quello che dici te, è appunto il discorso delle banche. E un altro aspetto è sicuramente anche quello dei tassi di interesse molto, molto bassi. Certo, dall'indagine di cui stiamo parlando viene fuori che è cambiato anche il tipo di investimento sulla casa. Magari una volta andavano molto i monolocali, soprattutto parliamo nelle città come Venezia, dove si faceva l'investimento del piccolo appartamento, ma che fosse magari in centro storico, no? Adesso sta cambiando un po' anche questa prospettiva. Sì, ci è piaciuto fotografare questa situazione grazie al prezioso aiuto dell'osservatorio dell'agenzia del territorio, dell'agenzia delle entrate, perché dà anche l'idea qua, anche qui si ha l'idea di come siano cambiati i tempi. A suo tempo, prima della crisi, un investimento in un mini locale, in un mini appartamento era sicuramente vantaggioso, valeva la pena perché comunque il prezzo era ancora abbordabile rispetto invece ai prezzi esorbitanti delle case più grandi, e comunque valeva la pena farlo perché poteva essere un'ottima seconda casa da affittare, una casa dove andare a vivere, però soprattutto come seconda casa da affittare. I tempi sono decisamente cambiati, la gente magari preferisce comprarsi una casa più grande, non in centro, quindi anche per possibilità di parcheggio e maggiori comodità. E chiaramente una casa grande in zone limitrofe rispetto a un capoluogo può, in questo periodo insomma, la si può comprare con somme relativamente accessibili e sicuramente non ai prezzi a cui la si pagava a suo tempo. Poi contiamo un'altra cosa, è chiaro che proprio in tempi difficili la gente preferisce andare a vivere magari anche in più persone, lo vediamo molto e nelle famiglie straniere che molte volte si uniscono e vivono in più persone in appartamenti grandini, certo non grandissimi, ma insomma non certo in monolocali. C'è stato, e l'abbiamo raccontato a suo tempo, un boom molto curioso che era anche quello degli amici che andavano a vivere assieme, e quindi insomma è stato anche un fenomeno un po' particolare proprio per dividersi le spese, non solo della casa, qua stiamo parlando chiaramente soprattutto di affitti, ma anche le spese condominiali, che sono sempre molto impegnative. Eh sì, quindi cambiano i tempi e ci si adatta con i soldi che si ha, insomma, a ovviamente quello che offre il mercato, e questo cambia un po' anche il nostro modo di vivere e di fare gli acquisti. Quando dobbiamo comprare una casa, c'è qualcosa che come Adico vogliamo ricordare è necessario essere attenti, e soprattutto su che cosa? Ma allora, abbiamo avuto diverse segnalazioni in questo periodo per quanto riguarda proprio il rapporto tra il possibile acquirente e l'agenzia immobiliare. E ci sono state delle problematiche soprattutto legate alla proposta d'acquisto, che impegna da una parte il proprietario, da un'altra parte il possibile acquirente, però in mezzo c'è l'agenzia immobiliare. Insomma, è un discorso un po' complesso, nel quale molto spesso il potenziale acquirente si ritrova ad aver perso una caparra di qualche migliaio di euro. Ecco, quindi il consiglio, che può apparire banale però in realtà è sempre utile, è quello di scegliere l'agenzia immobiliare giusta se si acquista tramite agenzia immobiliare. Di contro l'acquisto tra privati lascia sempre intendere che ci possano essere delle problematiche extra che invece possono essere sanate riferendosi a un'agenzia immobiliare. Ecco, quindi assolutamente non è che stiamo attaccando l'agenzia immobiliare, stiamo dicendo che di questi tempi qualcuno fa il furbo, quindi attenzione anche in questo caso. Poi chiaramente la parte della richiesta del mutuo è una cosa fondamentale, quindi mi raccomando a scegliere un finanziamento, un prestito che poi possa essere onorato, per evitare davvero cattive sorprese, come purtroppo stiamo vedendo tante in questo periodo. Invitiamo quindi magari a chi deve fare questo passo, se vuole avere un aiuto, un consiglio, a contattare direttamente l'Adico. C'è il sito associazionedifesaconsumatori.it che vi può dare già qualche indicazione, poi ci sono i contatti, quindi magari proprio parlando con te o chi collabora con l'Adico. Assolutamente. Va bene, grazie Gianluca Codognato. Grazie. Ci troviamo fra qualche giorno per un altro appuntamento. Grazie a te, buona giornata. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.